alle più facili. Ma guarda che memoria che ho. Sapete chi sono i colpevoli? Prova a cantarla. Ma la colpa dei vigliacchi studenti che per capriccio suo la guerra han voluto e hanno messo l'Italia nel lutto. Per 100 anni nel lutto sarà. Cominciare dal principio, scusate, sapete, è perché che il punto è dunque, da quei vigliacchi crudeli austriaci sono che di nessuno. Cante, che di nessuno. Ma quei vigliacchi crudeli austriaci che di nessuno non hanno pietà. Ma chi in trincea, chi dietro alle rocce, riparandosi per non essere colpiti, ma quei vigliacchi crudeli austriaci che di nessuno non hanno pietà. Finanzi, quella di studenti, sa? La colpa dei vigliacchi studenti? Sapete chi sono i colpevoli? Sapete chi sono i colpevoli? Cantina. No, tra lei la visia. No, tra me è una strofa in atto, Gianni. Tra lei è un fermo cantante al popolo. Ecco, questo era. Perché era mia prima regista. C'è per il mio cantante. No. Allora, visia. Allora, femmine. Allora si spiegava. Sì. Sapete chi sono i colpevoli vigliacchi di questa guerra o il popolo italiano? E allora cantai la colpa dei vigliacchi studenti. Che per capriccio suo, perché i miei cantanti, ma la svelta, c'è il parà, che per capriccio suo la guerra han voluto e hanno messo l'Italia nel lutto, per 100 anni nel lutto sarà. Ah, è che sono io. Seguite il mio stato.